Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Anche Salva Danaio è in diretta dal Vinitaly, Verona, 44esima edizione in questa bella postazione che è stata assegnata a Radio 24 dalla Regione Veneto, e siamo in diretta proprio nei minuti in cui si è appena conclusa la visita in questo stand da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Anche noi di Salva Danaio, naturalmente, essendo qua, non possiamo fare a meno di parlare di vino. Ovviamente abbiamo dovuto trovare un taglio finanziario da dare alla trasmissione, e allora parleremo intanto di prezzi. Senza scendere nel dettaglio, vorremmo però capire quanto gli italiani sono disposti a spendere per una buona bottiglia rispetto ad esempio ai consumatori all'estero, e quali sono i criteri che guidano la scelta in termini economici. Poi parleremo anche di prodotti finanziari che investono nel vino. Vi spiegheremo cosa sono i certificati Emprimer, una parola molto complicata, ma è un termine sul quale è intervenuta di recente anche la Consob, l'autorità che controlla il mercato finanziario, e ha detto: questo non è un prodotto finanziario, non ha bisogno di un prospetto informativo. Allora vorremmo capire appunto le modalità con cui certe case grandi vitivinicole appunto li collocano sul mercato fra i risparmiatori. Il vino, la grande distribuzione, con che atteggiamento guardano all'acquisto del vino al supermercato i consumatori, e che etichette vanno per la maggiore? Anche di questo parleremo, perché in questi minuti è in corso un convegno i cui risultati ci verranno dati appunto fra qualche motivo, ma abbiamo già le grandi marche che vanno per la maggiore nei centri commerciali, nella grande distribuzione. E poi sarà anche uno dei nostri temi di partenza la lotta ai falsi, perché anche la contraffazione riguarda anche il vino, è colpito appunto dal fenomeno della contraffazione. Allora cercheremo di capire in che misura. In Veneto ieri c'è stata un'iniziativa che ha avuto anche una natura, per così dire, goliardica, che ha voluto enfatizzare l'attenzione generale intorno a questo argomento. Quindi tante cose da raccontarvi, ovviamente, e vorremmo vivacizzare come sempre la nostra trasmissione con i vostri interventi all'800 24 00 24. Se volete potete anche scriverci al 349 238 6666. Vi presento intanto i primi due ospiti che ci faranno compagnia nella prima parte della nostra trasmissione. Dottor Luciano Piona, presidente di Uvive. Uvive è l'unione, lo spiego bene, dei consorsi vini veneti DOC. Dottor Piona, ben trovato a Salva Danaio, perché non c'era mai venuto a trovare. E lui ci racconterà proprio questa iniziativa che, ho detto, ha avuto degli aspetti goliardici, ma ha voluto enfatizzare l'attenzione su un problema invece che per il vino veneto è molto serio e molto importante. E poi un amico di Salva Danaio, Gian Pietro Comolli, direttore Forum Spumanti d'Italia, economista Vini Spumanti, responsabile Osservatorio Mercati e Consumi, anche lui reduce da un altro convegno questa mattina, la presentazione del libro del nostro gastronauta, di Davide Paolini. Dottor Comolli, bentornato. Grazie dell'ospitalità. Dottor Comolli ci aveva aiutato in realtà in una puntata natale di Soldi e Dintorni ad orientarci negli spumanti che avrebbero potuto accompagnare le nostre feste, ovviamente con un occhio sempre al prezzo, momento di crisi, quindi ovviamente questi aspetti magari per qualche esperto del settore non è da tenere troppo in considerazione se si cerca un buon vino, ma il taglio del portafoglio dei nostri ascoltatori noi lo dobbiamo naturalmente guardare. Prima di partire nella nostra chiacchierata con voi, però vi così racconto anche da Verona che cosa sta accadendo in borsa questa mattina. Allora, dopo che le preoccupazioni si erano scatenate sui mercati finanziari ieri a causa del rinnovato accentuarsi della crisi greca, oggi ancora una volta l'Europa invece la rilascia da parte questa crisi. Perché? Perché ieri la Banca Centrale Europea ha detto: l'opzione default, bancarotta per questo Stato, non è da prendersi assolutamente in considerazione. Pertanto oggi di nuovi indici in Europa in rialzo, con Parigi che li guida più 1,07%, abbiamo Francoforte che guadagna lo 0,8%, Londra più 0,6%, Milano più 0,48% sulle FTSE MIB. Un sospiro di sollievo anche per l'euro, che sul dollaro ha recuperato la soglia di 1,3405. Magari anche il tema delle esportazioni e la valuta sarà un tema, e il vino un tema interessante da valutare se ce la faremo questa mattina. Comolli mi dice di sì, e quindi magari partiamo proprio da questo. Allora, Italcementi guida ai progressi di Piazza Affari, più 3,28%, si riaffacciano le notizie, le congetture, le ipotesi, le speculazioni su una possibile aggregazione con la francese Semaine Francais. Luxottica più 2,57%, Azimut più 2,31%, il Banco Popolare più 1,88%, segno meno invece per Pirelli, perde l'1,37%, perché Questo gruppo è colpito oggi dal rialzo delle materie prime in tutta Europa. Abbiamo poi Generali che perde un punto, invece in questo caso per il Leone di Trieste il tema è la possibilità di un aumento di capitale, eventualità che è stata toccata in un'intervista alle Figaro dal presidente del colosso di Trieste, Barnheim. Tra l'altro il gruppo va ad assemblea degli azionisti con rinnovo di tutti i vertici a fine mese. Fondiaria meno 0,8, Telecom meno 0,38%. Siccome dobbiamo subito andare a parlare di vini, direi che la borsa oggi la possiamo accantonare abbastanza rapidamente. Da dove cominciamo? Piona, raccontiamo subito cosa avete combinato ieri con questa storia della lotta ai falsi, come avete voluto richiamare l'attenzione intorno a questo problema. Abbiamo affrontato un problema serissimo con un atteggiamento diciamo un po' così goliardico. Il problema dei falsi nel vino succede, il consumatore chiaramente deve essere capace di orientarsi e le denominazioni, i nomi, dobbiamo proteggerli da chi di fatto sfrutta questa notorietà, magari non dando quella qualità e quella tipicità che invece proprio l'attività nostra dei consorzi di tutela è quella di tutelare. E quindi questo è un aspetto molto sentito, anche in comunità europea si è molto dibattuto, abbiamo avuto il problema delle menzioni, adesso finalmente c'è una chiarezza di intenti, la comunità europea difenderà i toponimi in tutto il mondo. I toponimi sono i vini che hanno in pratica il nome che prende, il vino che prende il nome dal posto dove è prodotto, non so, Custozza, Bardolino, Chianti, oggi anche il Prosecco, perché questa nuova DOC abbiamo identificato appunto una zona iniziale di produzione dove è nata questa uva e quindi diciamo che la comunità si sta spostando e darà assolutamente un apporto positivo in tutte le trattative internazionali per difendere queste denominazioni. Chiaramente i falsi, cioè tutti quei nomi che simulano o assomigliano, possono trarre in inganno il consumatore, vanno identificati, certo. E in un certo qual senso ci può fare qualche esempio? Perché io le devo dire la verità, non mi sono mai imbattuta in una situazione del genere, ma dove è possibile che il consumatore cada in questa trappola? Come si fa a riconoscere? Perché voglio dire, abbastanza difficile, io lo raccontavo nella trasmissione precedente, certo. Sono marchigiana, conosco il Verdicchio, la Lacrima di, sì, Morro d'Alba e tanti altri vini, che cosa posso trovare in giro che mi può far cadere in trappole di questo tipo? A parte che nel passato alcune denominazioni sono proprio state usurpate in altre nazioni proprio per mancanza di accordi internazionali, tipo la Napa Valley in California che ha riprodotto il Chianti esatto, quindi questo è un fatto fondamentale, però anche nomi che possono simulare, non so, prendiamo Prosecco, gli togliamo una parte iniziale, teniamo solo il secco e simuliamo un qualcosa che ci assomiglia, il consumatore al momento può venire un attimino distratto da queste cose. Chiaramente si troverà nel bicchiere qualcosa di molto diverso, perché non dimentichiamo che un vino a denominazione di origine controllata è stato prima visto il vigneto, abbiamo visto che ci siano le varietà, abbiamo visto che ci siano le rese, siamo andati in cantina, abbiamo controllato che il vino ci fosse, l'abbiamo assaggiato prima che venga messo in bottiglia e poi si fanno anche dei controlli successivi, quindi c'è tutto un lavoro ed anche un, certo, costo chiaramente, perché qualcuno vuole fare il furbo e non sottoporsi a queste regole, noi dobbiamo far sì che... No. Senta, io posso capire che il consumatore americano, che non è un grande esperto di vini, possa cadere nella trappola del Chianti venduto nella Napa Valley della California, come dicevo prima, ma in Italia anche i consumatori italiani... Vabbè. Si lasciano confondere, comunque siamo dei grandi estimatori, dovremmo teoricamente essere in grado, sì, di riconoscere almeno i nostri prodotti, o no, non è così? Certo, io ho una grandissima fiducia nel consumatore, perché secondo me il consumatore istintivamente conosce e capisce il vino, perché se tu gli fai assaggiare ad una persona anche che si dice non essere intenditrice, 5 vini, vedrai che sceglierà sicuramente un buon vino. E chiaramente ognuno... A costo di spendere qualcosina in più? Sì, io penso che comunque il vino italiano sia un vino che proprio nella fascia del rapporto prezzo-qualità sappia esprimere delle importanze, delle eccellenze che non difficilmente si trovano in altri paesi. Ma il consumatore ha questa sua capacità, invece purtroppo a mio avviso è molto distratto sui nomi. Ah, ecco. Riconosce il vino, ti sa dire che era un buonissimo vino, sa scegliere il vino nel bicchiere, però se gli chiedi come si chiamava, che annata era... fa più fatica e quindi certo. È vulnerabile. Sono annata, diciamo, a riconoscerlo, sarei in grossa difficoltà anch'io. Un nome penso che teoricamente saprei riconoscere, diventare un sì. Brunello, un Runello, non lo so, adesso faccio un sì, esempio. Però c'è l'attimo di disattenzione, capito, dobbiamo pensare che chiaramente non si beve solo, non sono solo i gourmet che bevono sono anche persone che sono andate a cena, esatto. Con gli amici con la quale giocavano a pallone. Certo. Quindi è più facile che l'addetto ai lavori sia molto attento, esatto, a tutto questo. Dottor Comolli, curatore dell'Osservatorio Mercati e Consumi del Forum Spumanti d'Italia, anche per le bollicine c'è lo stesso problema? Noi qui ci siamo soffermati particolarmente sul vino con il dottor Piona, ma... Soprattutto in questo momento dove le bollicine italiane, cioè il Made in Italy bollicine e spumanti, sta dando un grande risultato, sicuramente questo vuol dire molto, vuol dire portare in giro un marchio, portare in giro una nazione, e allora bisogna stare veramente molto attenti su quello che si fa. Io mi ricordo per esempio nel 93, quindi subito dopo il famoso trattato di Lisbona del 90, del WTO e dei contratti, accordi, TRIPS, scoprimmo una bottiglia addirittura alta 12 metri in una grandissima cantina, nella più grande cantina dell'Uruguay, cantina che faceva 600.000 ettolitri di vini imbottigliati, aveva questa bottiglia alta 12 metri dove riportava e replicava esattamente una bottiglia uguale, identica, italiana della Francia Corta. Quindi questo al momento si cercò subito di contrapporsi con autorità, ma non ci fu verso, perché le leggi internazionali, cioè il mercato mondiale, si basa sui brevetti industriali e non sui brevetti intellettuali. Da lì evidentemente tutti i consorzi tutelano gli italiani, e quindi tutti i consorzi che tutelano un prodotto DOC e DOP, l'operazione più giusta era quella di quasi far figurare che una denominazione di origine fosse un brevetto industriale. È brutto da dirsi, cioè dover fare un passo indietro rispetto a un emblema che dovrebbe essere riconosciuto in tutto il mondo, ma purtroppo se si vuol giocare a carte scoperte, se si vuol vincere nel mondo, bisogna purtroppo fare anche usare le leggi che ci sono negli altri paesi. E certo. Allora, noi ci dobbiamo già fermare, abbiamo la prima pausa, poi c'è anche però un dato molto interessante che il dottor Comolli commenterà con noi, cioè la crescita del consumo e del valore degli spumanti italiani all'estero, perché questo è il Vinitaly, ma anche gli spumanti credo che si possa parlare tranquillamente. E c'è un tema interessante, perché l'export di bollicine all'estero cresce, e a farlo crescere proprio anche il prezzo all'origine contenuto delle bottiglie italiane. Allora, se questo è un aspetto che ci piace affrontare, il tema anche del, come dire, economicità, chiamiamola così, di ciò che beviamo, allora anche questo affronteremo tra poco. Ripartendo con la nostra trasmissione in diretta dal Vinitaly, un continuo movimento, è molto bello anche per questo. D'altronde siamo nello stand che credo è il padrone di casa, è in assoluto il più frequentato da tutte le autorità, questo ci fa naturalmente piacere, e anche la nostra postazione è un via vai continuo di ospiti. Ci ha raggiunto José Rallo, donna fugata, famiglia titolare di questa prestigiosissima azienda vitivinicola del sud Italia, e l'abbiamo interpellata perché con lei parleremo tra poco di un prodotto di investimento legato al vino, il certificato Emprimer. Noi in passato ne abbiamo parlato in altre trasmissioni, però la dottoressa Rallo diceva: attenzione, non è un prodotto di investimento per tutti, per cui anche l'appassionato di vino, l'investitore è molto attento a questi aspetti, anche il collezionista, se vogliamo. Fate attenzione prima di puntare su questo prodotto. D'altronde poche aziende hanno sperimentato questo veicolo in Italia, c'è anche Donna Fugata fra questi, ci racconterà anche come è andata. Allora, avevo promesso però intanto ad Alessandro dalla provincia di Grosseto di intervenire per chiacchierare con i nostri ospiti. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei, Deborah, buongiorno ai suoi ospiti. Ci la mia domanda tutto. È la seguente: io abito in Maremma, quindi non sono abbastanza conosciuta per vini di qualità, e mi sono un appassionato, ne compro diversi e soprattutto li compro nella grande distribuzione. Ora io vorrei capire come mai sia il Morellino di Scanzano, sia il Barolo, sia il Brunello di Montalcino, che il Chianti Classico, si trovano a dei prodotti a dei prezzi molto stracciati da degli imbottigliatori che poi imbottigliano tutto. Io, se vuole, gli faccio anche dei nomi. Ma facciamo qualche esempio. No, mi stanno un po' scandalizzando i miei ospiti che non dicono di fare nomi e cognomi. Vediamo, non vogliamo offendere nessuno, se sono attività che vengono fatte, sono alla luce del sole. Posso fare qualche nome? Proviamo. La PAM di Follonica vende un Brunello di Montalcino imbottigliato da Ascoli di Pontassieve a 8,95 €. Cosa c'è dentro? Cioè, quale sarebbe il prezzo di mercato invece, Alessandro? 22. Io non lo conosco. Quanto? si trova a 25, 28, 22 centimetri di prodotto, cioè il Brunello. Quindi veramente. Qua o i produttori vengono rinunciando completamente ai loro margini, oppure c'è qualcos'altro. E adesso ovviamente non abbiamo l'esperto di vino toscano, abbiamo l'esperto di vini veneti, però magari è un problema che può riguardare anche il vino veneto, dottor Piona. Bisogna pensare che una bottiglia di vino è fatta di tanti componenti: il packaging, il liquido e la comunicazione. Quindi diciamo che tutta questa differenza il prezzo è regolato dalla domanda e dall'offerta. Quindi Alessandro può essere comunque sicuro che nella... Poi questo è un aspetto che affrontiamo nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione, che comunque nella catena della grande distribuzione, dove c'è scritto il Brunello, Brunello di Montalcino, 8,90 va bene, 90 con il collarino della DOCG, sicuramente è un prodotto a denominazione di origine controllata e garantita, che un consorzio ha controllato. Chiaramente, se parlavamo prima di falsi, abbiamo avuto anche casi di etichette false, di fascette false, così come ci sono le persone che stampano le banconote false. Mm-hmm. Però non dimentichiamoci che alle spalle c'è sempre un liquido, dentro una bottiglia c'è un chilo d'uva, ci sono dei costi industriali e c'è una legge di domanda ed offerta che le regola. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare a priori dei prezzi, non dobbiamo esistono comunque delle soglie minime di costo. No, forse Alessandro si era un po' allarmato per il fatto che abbiamo aperto la trasmissione parlando di falsi, quindi di, come dire, prodotti contraffatti, e lui dice non è che per caso io, perché vado nella grande distribuzione, corro il pericolo di trovare un prodotto di questo tipo. Questo non credo che sia assolutamente possibile. Esiste un minimo di costi dal quale guardarsi, perché sappiamo che per produrre, sono qui con produttori, anch'io sono un produttore di vino di Custozza, e sappiamo che per fare un chilo d'uva ci vuole del lavoro, ci vuole tanto lavoro, ci vogliono delle attrezzature, ci sono degli investimenti, quindi esiste un costo minimo piuttosto da cui guardarsi. Ma al di là di questo, ogni vino soffre le leggi del mercato e quindi i suoi prezzi possono altalenare. Al di sopra di questa soglia minima di costo di produzione, poi è il mercato che ne fa il prezzo. Dottore Sarallo, cosa pensa di questa riflessione che abbiamo condotto fino a questo momento? Io sono perfettamente d'accordo. Ogni vino, ma direi anche ogni azienda, ha una sua struttura di costi ed è giusto che il prezzo rifletta questa struttura di costi. Dunque, ma voi per dinanzi esempio alla crisi, dinanzi alla crisi, le aziende si sono regolate in tanti modi, no? C'è chi non è riuscito a fare giacenza, quindi non è riuscito a stoccare i propri prodotti in attesa che i consumi tornassero, e ha magari svenduto il proprio prodotto, però la qualità di quel prodotto era buono. Certo, l'immagine di quell'azienda magari traballerà un po'. C'è chi invece è riuscito a conservare le sue giacenze perché il vino era di qualità e poteva anzi migliorare con il tempo, e quindi è andato vendendo in relazione alla domanda, come dice il nostro il mio collega qui a fianco, vendendo e mantenendo i suoi prezzi. Ad esempio, questa è la politica che ha seguito Donna Fugata. Altra cosa sono assolutamente i falsi e le contraffazioni. Certo. 8 euro e qualcosa, io penso che un vino rosso buono lì dentro ci stia, ci può stare benissimo. Poi magari sarà un Brunello al suo gradello di distribuzione può arrivare inferiore. A 25 euro lo stesso vino. Beh, l'Enoteca sicuramente, che ha già 30, 40, 50% di ricarico, poi dipende dalla città, certo. Perché l'Enoteca di via Tornabuoni non applicherà lo stesso ricarico di una stradina, non so, di periferia. Certo. E poi c'è anche la ristorazione, dove addirittura parliamo del 200-300% di ricarico. Ma quindi questo... il prezzo poi alla fine non solo è frutto dei costi dell'azienda e quindi il prezzo franco cantina, ma anche il prezzo che riflette i costi di chi lo vende, degli affitti, del personale che fa il servizio, della refrigerazione, del cambio della bottiglia che c'ha il tappo, no? Quindi il prezzo di vendita è veramente una somma di tantissime cose. Io dico 8 euro quasi quasi, una bottiglia la comprerei e me la assaggio. Infatti. E poi magari se è buono ne compro anche un altro, magari lo mangerò a pranzo con la pizza piuttosto che la sera con la fiorentina. Chiarissima. A proposito di nomi contraffatti, un ascoltatore ci fa anche l'esempio del brachetto, banchetto, e anche questo tanto per dare qualche indicazione qua ai nostri ascoltatori. Intanto il dottor Comolli ci ha dato un'altra cifra molto interessante, visto che spaziamo da un argomento all'altro stamattina. I collezionisti al mondo di vino sono 24.600. È vero. Sono tanti? Beh, secondo me per le cifre che annualmente spendono sicuramente sono molti, perché partecipano a tutte le grandi aste di vini, grandi aste di vini si svolgono principalmente in Oriente e negli Stati Uniti e anche in Francia. In Italia pian piano stanno arrivando. Ma riallacciandomi al discorso di prima, l'economista salta fuori, nel senso che nei dati che abbiamo raccolto come osservatorio mercati e consumi in Italia e nel mondo, anche solo il prezzo di una bottiglia, a seconda del cambio della moneta, a seconda del sistema di mercato che ha quel paese, a seconda per esempio anche del sistema distributivo che ha un paese, cambia il prezzo, per cui è evidente che il consumatore può benissimo trovarsi sul mercato una bottiglia in un paese, la stessa bottiglia in un altro paese ad un altro prezzo. Questo mi sembra normale. E infatti no, intanto come potete sentire, lo dico ai nostri ascoltatori, c'è qualche interferenza, nel senso che probabilmente stanno già cominciando ad allestire gli stand, i tavoli, giustamente, quasi ora di pranzo, per cui forse stanno richiamando, se non sto capendo male, nei vari stand appunto l'attenzione di tutte le persone che vorranno gustare, ovviamente le prelibatezze messe a disposizione in questo frangente, e fra un po' sì, li raggiungeremo sì, naturalmente con Moli. Anche perché il Vin Italy è un luogo dove sicuramente si degusta il vino, ma ci sono anche dei bellissimi ristoranti. Io poco fa ho fatto il giro verso la Cittadella della Gastronomia, che è un'iniziativa che ha Verona e che ha il Vin Italy ed è stupenda, e c'è pieno di gente che evidentemente in un momento di relax va anche a gustarsi un buon piatto trevigiano. Ho visto un buon risotto piemontese e ho visto qualcosa dell'Umbria, quindi sicuramente le regioni, cioè quel legame territorio, non c'è più questa presentazione del vino tout court, ma c'è una presentazione veramente del territorio. Quello che diceva Pione è perfetto, cioè oggi noi dobbiamo essere in grado come italiani, se vogliamo emergere veramente, di rimanere i primi, sia per il vino bianco che il vino rosso, per gli spumanti, dobbiamo sempre ed esclusivamente legare il prodotto al territorio. Benissimo. E quindi tutte le componenti del territorio, la ristorazione credo è un po' il nostro, mi passi il termine, il nostro petrolio, sono un po' i nostri diamanti, l'enogastronomia, come il turismo. Cerchiamo finalmente di farli funzionare come se fossero il nostro petrolio, la nostra e i nostri diamanti. Abbiamo questo in Italia, non possiamo inventarci di essere dei petrolieri, certo, ma facciamo il nostro mestiere. È un po' come quando in molti osservano che magari anche per tirarci fuori dalle secche della crisi dobbiamo valorizzare i nostri tesori dal punto di vista turistico, ad esempio, anche lì non ce la facciamo ancora, e coniugare ovviamente anche il tema del vino con il territorio, alimentazione eccetera, sarebbe una buona idea, ma però non ci dobbiamo, non riusciamo a decollare moltissimo. Ma non ci dobbiamo perché ci scandalizziamo di fronte a un prezzo. Ecco, io allora dico, se un consumatore si scandalizza di fronte a un prezzo, vorrei vederlo se si scandalizzasse di fronte a un paio di jeans che costa 250 euro. Ecco, allora dobbiamo accettare che questo mondo è fatto, soprattutto il mondo di vino, è fatto di una scala di prodotti all'interno dello stesso territorio. Allora ci può essere un prodotto base che ha determinate caratteristiche, che ha determinati canali di vendita, che ha un sistema produttivo diverso, che consente dell'economia di scala a determinate aziende. Poi ci sono dei cru, come dicono i francesi, o le nostre grandi vigne, che portano il nome quindi della vigna, della storia, ecco, quelli anche noi hanno degli altri prezzi, e il consumatore deve sapere che se mi va a chiedere un prodotto che ha seguito delle cure, come diceva la signora Ranne, come diceva Piola, dobbiamo per forza essere disposti a pagare il vino quello che costa, certo, come il pane. Noi italiani che abbiamo la tavola imbandita da sempre di grandi prodotti enogastronomici, forse ci dimentichiamo che dietro a tutto questo ci sta un'impresa, ci sta della gente che lavora. Quando noi passiamo per strada e raccogliamo le ciliegie, attenzione, anche quelle ciliegie lungo la strada hanno un padrone, cioè è questo a volte che il consumatore deve capire. E infatti, allora intanto c'è una considerazione di Domenico da Roma, che spero di poter commentare serenamente con i miei ospiti, ma non ho capito la storia del punteggio per i vini. Domenico, buongiorno, ci dica. Buongiorno. No, la mia domanda era questa: se era possibile ipotizzare, insieme alle diverse DOC che esistono, perché insomma il problema è che una DOC, all'interno della DOC ci possono essere vini magari che costano da 10, magari anche a 20, 30. Ah, insomma una sorta di graduatoria. Esatto, quindi magari visto che credo che l'associazione sommelier, quando analizza un vino, lo degusta, danno anche una sorta di punteggio. Voti. Esatto, magari avere anche un punteggio di riferimento, così se io vado su uno scaffale e ci sono 10 vini che non conosco, è vero che il prezzo in genere mi dà già una indicazione, però a volte il prezzo non è in realtà quello che poi troviamo alla bottiglia, quindi avere un punteggio di una commissione, di qualcuno che possa va appunto bene, attribuirlo. Va... E allora, sentiamo un po' se questa provocazione interessa ai produttori Donna Fugata. Sì, devo dare suggerimenti per chi in viaggio ci dica. Intanto, la Donna Fugata. La raccolgo e voglio anche confortare un attimino il nostro ascoltatore. Ecco, io penso che oggi sul mercato di pagelle ce ne sono veramente tante. Mm. Abbiamo tante guide, ognuna magari ha un suo filone, ha una sua filosofia. E quando parliamo di DOC, attenzione, dobbiamo ricordarci sempre che la DOC certifica l'origine del prodotto. Non è un discorso di qualità organolettica, certifica l'origine del prodotto e il rispetto di alcune regole. La qualità organolettica, per fortuna, dico io, è una cosa veramente soggettiva ed è il bello del vino. Certo, stagionale. È una cosa soggettiva, cioè a me può piacere un Brunello, non so, molto tannico, molto, molto invecchiato, a un altro può invece preferire un Nero d'Avola, magari scarico di colore, divertente da bere fresco d'estate, no? È una cosa soggettiva la qualità, questo è molto importante. Guardi, qualche volta faccio questo paragone con la casa, no? Parliamo sempre del mercato immobiliare, i prezzi che volano, ma ci sono tante volte certe scelte che facciamo guidati dal cuore e siamo disposti ad attribuire alla casa del nostro sogno un prezzo, ovviamente un valore più alto, siamo disposti a spendere di più. Credo che questo concetto si possa applicare un po' a tutti gli ambiti di vita e questa mattina lo abbiamo applicato anche al vino. Torniamo in diretta da Verona, dal Vinitaly, per l'ultima parte di Salvadanaio. Anche noi ci siamo molto volentieri immersi nel mondo del vino. Adesso facciamo questo legame con il mondo della finanza. José Rallo, Donna Fugata, allora la vostra azienda è una delle poche in Italia ad emettere i cosiddetti certificati Emprimer, che sono dei prodotti di investimento, anche se in realtà la Consob nei giorni scorsi ha detto no, non sono così, e pertanto ha detto non è necessario, andando in banca chiedendo questo prodotto di investimento, che la banca rilasci il cosiddetto prospetto informativo. Detto questo, che è una diatriba che non ci interessa affrontare almeno adesso, voi ne avete rilasciati quanto negli diversi, ultimi anni e come funzionano? Sì, ma non so, forse saremmo arrivati anche a 10.000, ogni anno ne rilasciamo circa 1.500, 2.000, 2.500, dipende anche un po' dall'annata. Ma è un prodotto di investimento sicuramente interessante per chi ama il vino e lo conosce. Questo è sicuro, può essere un modo di diversificare i propri investimenti. Le banche di solito propongono certificati Emprimer su prodotti di qualità riconosciuta, prodotti di lunga vita, perché poi il certificato Emprimer ha questo significato. Certo, dura qualche anno. Esatto, ovviamente. Cioè io compro oggi il mio diritto a ricevere una bottiglia che oggi non c'è, perché magari c'è un vino in barrique. Quindi è come se questa persona fosse il vostro investitore, finanziasse quasi la vostra attività. Esattamente, infatti è concepito dalle aziende come un mezzo di finanziamento dell'affinamento del vino rosso in botte. E quindi questo vino può rimanere lì un anno, due anni, tre anni. Il prezzo ovviamente è scontato di questo periodo. Ovvio. Cioè, infatti è uno dei vantaggi sicuramente più interessanti di un investimento di questo tipo, perché si compra a sconto senz'altro. Si compra a sconto perché tu, non so come si dice in termini finanziari, attualizzi questo investimento del capitale oggi per un bene del quale usufruirai dopo due, tre, quattro anni, no? È una cosa che ha funzionato molto e devo dire che ha funzionato quando la banca ha venduto attraverso persone specialiste o comunque conoscitori del vino. Anche lì qualcuno ha fiutato un business, ecco, interessante, perché, è stato infatti contaminato l'ambiente. Infatti, quindi nel momento in cui la banca vende a chi non conosce il vino, non capisce che quel vino gli arriverà dopo tre anni, perché qualche caso di questi c'è pure capitato, no? Della vendita fatta in modo magari un po' superficiale. Quindi prendevano il certificato e volevano contestualmente anche la cassa, esatto, con i vini. Sì, esatto, cioè per loro era come se acquistassero la bottiglia, ma la bottiglia era da venire, certo, no? Certo. Quindi è importante che la persona della banca sia brava a spiegare il prodotto. Dopo di ciò non c'è dubbio che più se ne vendono, più si diffonde il prodotto, più si diffonde una cultura. Esiste un taglio minimo di investimento su questo settore? Ma il taglio minimo sicuramente c'è, ma mi pare che sia nell'ordine di qualche centinaio di euro, anche perché le bottiglie che vengono vendute sono bottiglie che vengono vendute tra i 30 e i 25 Facciamo qualche esempio, euro. Qual è il sottostante vostro di un certificato? Il nostro è stupendo, il Mille e una Notte, questo da Nero d'Avola che viene da una produzione per pianta di 800 grammi di uva, quindi molto molto concentrato, molto ricco, molto, molto siciliano. Ecco, molto mediterraneo, un vino che passa due anni in barrique e poi un anno in bottiglia. E quindi il consumatore deve aspettare almeno 3 anni per deve poter... sapere quello che compra. Questa è una regola che vale per tutto, che viene puntualmente disattesa, figuriamoci in un ambito così delicato. Dottor Comolli, che ne pensa di questa finanziarizzazione del vino, anche se non sono tanto diffusi i certificati nel nostro paese? C'è anche un indice che testa, quello inglese se non mi sbaglio, che però è molto sbilanciato sui vini francesi. Me lo racconta, visto che lei annuisce, sa tutto, quindi non è necessario che spieghi. Insomma, si cerca di essere informati. Sì, sicuramente il mercato dei certificati in premier in Inghilterra è molto forte, anche perché è un mercato che ha dei contatti telematici oggi con moltissimi uffici all'estero. Ci sono per esempio poi delle produzioni mondiali, faccio soprattutto riferimento ai francesi e agli australiani, che hanno addirittura degli uffici tecnici all'estero, hanno delle filiali, chiamiamole così, che rappresentano ufficialmente il prodotto all'estero, e quindi quelli sono i cosiddetti cabinet o i bureau, chiamiamoli come vogliamo, dove avvengono le pre-degustazioni o avvengono i pre-contatti per poi logicamente poter esprimere un valore su determinate partite, che sono solitamente di 6 bottiglie, sono solitamente di grandi formati, sono solitamente di aziende e di vini soprattutto che hanno un background, cioè che hanno una storia al passato, non al futuro, anche se parliamo di prodotti che verranno acquistati dopo, ma sono prodotti che sono rappresentati dall'azienda sul mercato da un sacco di tempo, per cui si parla soprattutto di grandi vini bianchi. Me ne viene in mente uno francese che è della Loira, Sancerre per esempio, che sono dei prodotti che tenuti in una certa maniera hanno una durabilità nel tempo. Alcuni italiani sono i Barolo, soprattutto sono i Brunello di Montalcino, cioè quei vini rossi di una certa tipo di importanza. Però insomma forse sono più gli investitori stranieri ad essere interessati a questo segmento, noi italiani preferiamo quello che c'è nel bicchiere. Confermo. Mi pare di capire che possiamo concludere così la nostra trasmissione. E sono sicuramente i consumatori che bevono pochissimo. Benissimo. Che poi il vino è pur sempre anche un regalo, è un mezzo per presentare. Infatti a Natale veramente c'è un traffico molto interessante da questo punto di vista. Allora, io devo adesso fare un'altra cosa, perché anche se siamo al Vinitaly abbiamo il nostro appuntamento da qualche giorno che sta continuando, il nostro appuntamento con il Salone della Gestione del Risparmio, che si svolgerà a Milano a fine mese, 21, 22, 23 aprile. In vista di questo appuntamento Radio 24 ha cominciato questo percorso per farvi conoscere quelle che sono le parole del risparmio. Quella che abbiamo scelto di presentarvi oggi è sottoscrizione PAC, il piano di accumulo. Radio 24 e Assogestioni vi presentano Le parole del risparmio. Una volta individuato il fondo adatto alle proprie esigenze e deciso di investire parte dei propri risparmi, occorre sottoscriverne una quota attraverso il versamento del valore corrispondente. PAC, piano di accumulo del capitale, e PIC, piano di investimento del capitale, sono acronimi che identificano 2 modalità con le quali è possibile aderire ad un fondo comune di investimento. L'adesione avviene con il PIC tramite l'effettuazione di un versamento in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione delle quote del fondo, mentre con il PAC tramite l'acquisto di quote attraverso versamenti periodici. Con il PAC, il cliente acquisisce il diritto e non il dovere ad effettuare un certo numero di versamenti fino a raggiungere la somma stabilita nel contratto iniziale. Di norma, i versamenti partono da un minimo di 60. Una volta avviato, il piano di accumulo può essere alimentato con versamenti effettuati mensilmente o con altra cadenza periodica. Trattandosi dunque di una sottoscrizione a rate di quote di un fondo, si tratta di un investimento che ha gli stessi rischi del fondo in cui investe. In via più generale, il PAC può essere utile perché permette di investire anche a chi non dispone di un capitale. Per iniziare un piano di accumulo, basta in genere un versamento iniziale ridotto. Non sono rari i gestori che permettono 51 euro. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato Le parole del risparmio. Da un salone siamo passati all'altro, quello che ci ospita oggi, quello del vino, il Vinitaly. Però purtroppo Salvadanaio è terminata qua, avremmo voluto tante altre curiosità soddisfarvi, non ce la facciamo. Io ringrazio moltissimo per essere stato con noi Gian Pietro Comolli, che torneremo sicuramente a disturbare soprattutto nei frangenti festivi dell'anno per farci dare qualche indicazione su che cosa mettere a tavola senza spendere delle esagerazioni. E poi buon grande brindisi a tutti. Grazie moltissime anche a José Rallo per essere stata con noi. Grazie. Donna fugata e donna soprattutto molto in gamba, quindi complimenti. clienti. E non siamo riusciti a parlare del tema della grande distribuzione, avevo annunciato il collega del Sole 24 Ore, il direttore di Markup Luigi Rubinelli, bloccato fuori di qua, non ce la facciamo, ma abbiamo affrontato anche con gli altri ospiti il nostro argomento. Dal Vinitaly, da Salvadanaio è tutto, da Deborah Rosciani, buona giornata e naturalmente ci risentiamo lunedì regolarmente in diretta.